Leonardo evidentemente è un grande uomo di pubbliche relazioni, però come avviene in questi personaggi, la diplomazia poi prevale sulla sincerità e sulla lealtà. Ed effettivamente, se vogliamo ripercorrere la carriera di Leonardo come dirigente prima, come allenatore poi e come dirigente di nuovo dopo, quindi nel futuro, diciamo che si trovano dei contrasti sulla possibilità di un personaggio che abbia un po' approfittato della fiducia dei suoi datori di lavoro, perché non dimentichiamo che prima si è rivoltato contro Berlusconi, poi alla fine sorretto da Galliani quasi al punto impossibile, quasi al punto di contrastare Berlusconi, poi a distanza di tempo ha attaccato Berlusconi, che pure era stato il suo datore di lavoro per tanti anni, e dopo ha anche tradito Galliani andando all'Inter, perché poi alla fine non credo che Galliani sia stato contento del passaggio all'Inter di Leonardo. Certo, e alla fine ha morsicato la mano dell'Inter che l'aveva difeso. Esatto, e ora ha tradito anche Moratti, che tutto sommato gli aveva dato un giocattolo importante in mano, e poi tra l'altro trattandolo anche bene nel riconfermarlo, perché si sa che dalla squadra già venivano segnali piuttosto titubanti in questo senso.